Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Leggo su myspace.com/eclettica il commento di Pietro, da Imola. Oddio Giulio, la nuova sigla di Eclettica è alienante. Senza neanche rendermene conto, ripeto a memoria Eclettica con le stesse intonazioni dei bambini. E la sigla che avete appena sentito e che sentite tutti i giorni, alle ore 19 sulle frequenze di Rock FM, assieme a Giulio Caperdoni per un'ora di Eclettica. Già detto l'indirizzo di MySpace, rimane l'indirizzo mail, rimane l'indirizzo giulio@radiorockfm.com, l'indirizzo a cui scrivere direttamente nel caso appunto vogliate dialogare con me, oppure nel caso vogliate essere iscritti alla lista nera di Eclettica, mailing list che vi permette di ricevere settimana dopo settimana durante il weekend l'elenco dei brani, delle letture e dei film che hanno caratterizzato la settimana che si è appena chiusa. Al largo, la bruma incupiva le navi lontane. Nondimeno la luce appariva più intensa di ieri. Si poteva distinguere il crinale dei monti della penisola di Izu. Era un mare placido, di maggio. Il sole era ardente, il cielo turchino. Non c'era che qualche esile striatura di nubi. Onde minute si frangevano sulla riva. Sotto di loro, prima di disgregarsi, apparivano sgradevoli tinte ventrali d'usignolo, come se in loro si fossero accentrate tutte le alghe di varietà meno accattivante. L'agitarsi e il sommuoversi del mare, giorno dopo giorno, ripetizione quotidiana del mare di latte che si trasforma in burro nella leggenda indiana. Forse il mondo non voleva concedergli il riposo. C'era, forse, in quello spettacolo qualcosa che evocava tutto il male della natura. Questo era l'incipit dello Specchio degli Inganni di Yukio Mishima. Yeah. If you kill my dad, you'll never know where the treasure is buried. What treasure? The treasure of I'm a wiener. I'm a wiener. Classic. È stato Atlas Sound con Requiem for All the Lonely Teenagers with Passed Out Moms ad aprire quest'oggi Eclettica. Poi è stata la volta degli inglesi Sean Alice Group, con cui sono entrato in contatto grazie alla loro nuova uscita per The Social Registry intitolata 59.59, dalla quale ho estratto Motionless, che si è appena chiusa. Vi ricordo dell'esistenza del podcasting, ovvero sia della possibilità di avere tutte le trasmissioni di Eclettica suddivise in due parti di 30 minuti ciascuna, esattamente per come succede poi con la messa in onda radiofonica. E proseguiamo dopo la band inglese appena citata con un'altra band inglese, si chiamano Harrisons e provengono da Sheffield, quindi dalla stessa scena che ha dato i natali agli Arctic Monkeys. No Fighting in the War Room è il titolo del loro album di debutto, che è stato prodotto da Hugh Jones, che già aveva lavorato con i Con The Bunnymen, Teardrop Explodes, Stranglers. Loro indicano come padri putativi Clash, Jam, Fall, quindi avete sentito sei nomi che vi danno una collocazione temporale e artistica ben precisa. Da questo No Fighting in the War Room io vado ad estrarre la traccia che si intitola Monday's Arms. Per molti anni continuai a sostenere che ero capace di ricordare cose viste all'epoca della mia nascita. Da principio, ogni volta che lo dicevo, i grandi si mettevano a ridere, ma poi, sospettando la velleità di raggirarli, guardavano con astio la faccia pallida di quel fanciullino senza fanciullezza. Di quando in quando mi capitava di dirlo in presenza di visitatori che non erano intimi amici di famiglia. Allora, la mia nonna, per paura che mi giudicassero un idiota, mi dava seccamente sulla voce, ordinandomi di andare a giocare altrove. Questo era l'incipit di Confessioni di una maschera, di Yukio Mishima. Thank you. Era Questa Transliterator, il singolo per ora in versione solo digitale, disponibile in questa forma dal 19 di febbraio, che anticipa quello che è l'album per la Anti dei The Vochka, formazione statunitense, che uscirà il 18 di marzo con l'album dal titolo A Mad and Faithful Telling. Si rimane negli Stati Uniti, ci spostiamo a New York City, The Bogs. Forse qualcuno se le ricorda, nel 2002 io trasmisi più di una volta quello che era il loro esordio per Arena Records, intitolato We Are The Bogs, We Are. Mi ero assolutamente perso il loro secondo disco, che ho scoperto adesso essere uscito nel 2003, però per un'etichetta inglese, la City Rockers. Infatti siamo alle porte, nel mese di marzo, che uscirà del terzo album che esce per Tangle Up One Little Indian, album dal titolo Forts, album che hanno registrato a New York City assieme a Chris Zane, che è già stato al lavoro con gruppi come Asobi Sexu oppure l'SV Fav. The Bogs, che sono capitanati, pur essendo statunitensi, da un sudafricano nato a Durban nel 1975. Lui è Jason Friedman, è il leader della band, che ci ascoltiamo con il pezzo dal titolo Arm in Arm. Smithers, I don't believe in suicide, but If you'd like to try it, it might cheer me up to watch. Say it out loud.